ad alta voce. Alessandro Benvenuti legge I Mille, da Genova a Capua, di Giuseppe Bandi. Non era corso gran tempo quando comparve una numerosa cavalcata di cittadini, i quali acclamarono da lungi il liberatore, facendogli segno che venisse innanzi e accennandogli le bandiere tricolori che sventolavano sulle brume torri di Salemi. Spronò Garibaldi il cavallo incontro ai Benvenuti e con essi salì di buon tratto verso la città, nella quale lo accolse la popolazione festosa con suoni di bande e di campane e con grida infinite e con vere e solenni dimostrazioni d'affetto e di riverenza. Era un fortunato e piacevole mutamento di scena. E noi, che con un palmo di lingua fuori correvamo su per l'erta per tenerci, men che si potesse, lontani dal nostro gran capitano, udimmo con tanto di cuore l'eco di quelle grida e di quelle feste. Cominciavamo allora ad accorgerci che, venendo in Sicilia, non eravamo venuti in una terra di codardi o di ingrati. I primi abitanti di Salemi che incontrai su per l'erta e che scendevano dopo aver veduto Garibaldi per vedere il suo esercito, mi salutarono, uomini e donne, agitando i fazzoletti e gridando «Morte al Borbone!». Avverta però chi legge che ei gridavano «Barbone» e non «Borbone», ma la buona intenzione era assai. Tosto, per farmi onore, una ragazza mi tolse di mano la mia sacchetta e mi porse un mazzolino. Poi si fece innanzi un giovinotto e s'offerse d'alleggerirmi pigliandomi la sciabola, ma a questo dissi «Troppa grazia, fratello! Le sciabole son da quanto le mogli, non si fidano a nessuno». Il siciliano forse non mi capì, ma rise di tutto cuore indovinandomi agli occhi e si contentò di venirmi appresso chiedendomi un'infinità di cose, alle quali non rispondevo o rispondevo con monosillabi, perché la gran salita m'aveva fatto corto il fiato e i miei polmoni ansavano come due mantici. Ora narrerò come conobbi fra Pantaleo e come avvenne che il detto frate conobbe in quel giorno Giuseppe Garibaldi e fu quindi con noi mezzo soldato e mezzo cappellano al pari di Fanfulla Dall'Odi. Ero giunto quasi in capo a quella bestial salita e pigliavo fiato in una breve spianata nella quale sorgeva un convento simile su per giù a tutti i conventi dei frati di San Francesco che paiono rassomigliarsi come tanti nidi di rondine. Dinanzi alla porta del convento sorgeva, su un gran piedistallo di pietra, una croce di legno, e accanto al piedistallo era ritto un frate, giovane, vispo, e con due occhi pieni di fuoco, che indicavano in lui maggior dose di pepe che non comportasse per regola la fratesca proverbiale mansuetudine. Il frate mi salutò, e io non lo salutai, e tiravo oltre, come se nulla fosse. Ma il servo di San Francesco, fattosi innanzi due passi, mi disse «Ho 34». Avevo sul berretto il numero del mio reggimento, che fu il 34. «Non si usa rispondere al saluto?» «Fratino», risposi fermandomi, «avevi il capo a tutt'altri che a te, ma in fin dei conti sappi che nei paesi nostri, tra soldati e frati, non ci guardiamo che di traverso». «Sta bene», rispose il frate, «sarà così perché nei paesi tuoi i frati sono nemici della patria. Ma qui in Sicilia, viva Dio, non siam tali». «Me ne consolo», soggiunsi ripigliando la mia strada, «ma io debbo andarmene in città e non ho tempo da discorrere, quando anche ne avessi il fiato». Il frate mi si cucì ai fianchi e andammo insieme verso la città, che era vicina a pochi passi, e nell'andare tornò a dirmi «34, sei stato burbero con me, ma ti voglio bene, e saremo grandi amici. Se non sbaglio, tu sei toscano, lo sento alla parlata. Fammi adesso una grazia, conducimi dal generale». L'ho veduto passare poco fa, e il mio cuore è con lui. Condurti dal generale? Credi forse che ei voglia dir messa e abbia bisogno del diacono o del suddiacono? No, 34, non stanno bene in bocca tua certi discorsi. Credi tu che io non sappia che Garibaldi ebbe seco una volta un animoso frate e che questo frate lo seguiva impavido nelle battaglie e seppe morire col Cristo in mano e col nome d'Italia sulle labbra? Il fratino sebbene nel discorrere avesse un po' il tono del maestro di retorica o del lettore di filosofia, cominciò a piacermi, e più mi piacque quando mi numerò ad uno i miracoli di cui erano capaci i frati in Sicilia, e si vantò d'appartenere alla stessa regola dei bellicosi frati del convento palermitano della Gancia. «Che cosa credi?» proseguiva a dire. «In mezzo a questa gente superstiziosa e cieca, la croce e la parola d'un frate patriota valgono per 100 delle vostre sciabole. Conducimi dal generale, fa che io parli con lui, e ti giuro che in 24 ore, e anche meno, questo povero fraticello, umile e solo, sarà divenuto legione». Così discorrendo, giungemmo in una piazza, dove era una casa con un'alta torre. La banda suonava di rimpetto alla casa, e la folla batteva le mani e gridava «Evviva!». «Dov'è Garibaldi?» domandai. 100 mani s'alzarono per accennarmelo su in cima alla torre, intento a specolare col suo gran cannocchiale le sottoposte vallate. Aspettai che scendesse, e quando fu sceso gli tenni dietro, sempre col mio bellicoso frate alle costole. Fatti pochi passi, Garibaldi accomiatò la gente che lo accompagnava e salì con Fruscianti, Montanari, Gusmaroli e Stagnetti nel palazzo del Marchese di Torre Alta. Il frate sembrava avere le peretta fianchi, come i barberi, e non reggeva le mosse, ma io l'afferrai pel braccio e me lo trassi in un caffè, dove non mi parve vero di mettermi a sedere e chiedere da rinfrescare il becco. Mentre bevevo, il mio strano compagno continuò a discorrere rapido come un frullone, domandandomi 100.000 cose e ripigliando di tanto in tanto le sue arringhe con un linguaggio così ispirato e focoso da farmi credere che in lui rivivesse il Savonarola. Alla fine, quando mi parve tempo d'alzarmi, presi il frate sotto braccio ed escii con lui cantandogli questo salmo. «Senti, io ti conduco dal generale e dirò, se vuoi, qualche parola per raccomandarti, ma pensa bene a quel che sei per fare e pensa che se un giorno t'avessi mai a mostrare un cerretano o un vigliacco, io sarei buono a tirarti il collo come si fa ai galletti». Il frate m'afferrò la mano, me la strinse forte ed esclamò, «Uomo di poca fede, perché dubiti del tuo prossimo?». Salimmo le scale del palazzo del Marchese di Torre Alta e i servi mi indicarono l'appartamento del generale. Appena entrato col mio compagno nell'anticamera, Gusmaroli cominciò a soffiare come un gatto e facendomisi vicino disse «Che cosa vuole codesto frate?». «Egli è un buon frate», risposi, «che vuol parlare col generale e chiedergli il permesso di essere dei nostri». A queste mie parole, i quattro che erano nell'anticamera si dettero ad alzar la pugna e a digrignare i denti e a stralunar gli occhi, non altrimenti che avessi condotti in mezzo a loro Radeschi o Metternicche. E Montanari gridò, «Ecco qua, sempre alle solite, in casa del generale sempre preti, sempre frati», e tutti furono addosso al misero Pantaleo. E quale lo graffiava, quale l'afferrava pel cappuccio, quale gli squadrava in viso le corna. Finalmente Montanari, afferratolo di peso, s'avvicinò alla finestra. Il frate, spaventato, si dette a gridare. Io volevo difenderlo, ma il gran ridere me lo impediva. Quando ecco, s'apre un uscio in fondo all'anticamera e Garibaldi domanda «Che cos'è questo chiasso?». Tutti rimasero come statue. Io solo, soffocando le risa, risposi «Veda, ho condotto qui un buon frate che vuole essere dei nostri e costoro me lo baciano coi denti». «Oh, diavolo!» ripigliò con voce severa il generale squadrando da capo a piedi quattro luterani. E poi, rivolta a me, proseguì «Fate entrare il vostro frate». Entrammo insieme e io mi feci sollecito a dire «Ecco, signor generale, un frate che vuole essere una seconda edizione d'Ugo Bassi». «Ugo Bassi», esclamò il generale, cedendo a un'improvvisa commozione. «Ma lo sapete bene», ripigliò a dire dopo una lunga pausa, «lo sapete voi chi fosse Ugo Bassi?». Queste parole erano dirette al frate e il frate rispose «Era un uomo che seppe seguirti nella battaglia e seppe morire da forte, se...». «È vero», ripigliò il generale, «ma vi sentite voi il cuore di fare altrettanto se occorre?». Il frate cominciò allora a predicare ad alta voce. non altrimenti che fosse sul pulpito, e dandosi aria d'uomo ispirato e rapito tra le nuvole, parlava di Sansone, e di Gedeone, e di Maccabei, e di Davide, e di Saul, e dava a Garibaldi del tu, dicendogli: Giuseppe Garibaldi, non disprezzare questa mia tonacella, perché io ti dico in verità che sarà più salda della tua corazza. Non disprezzare questa croce, perché vedrai che balenerà più terribile fra i nemici che la tua scimitarra. Udendo il principio di codesta predica, cominciai quasi a pentirmi di essere stato l'introduttore di Messer Frate, e temere forte che quello scherzare col leone non avesse a procacciare qualche brutto saluto all'incauto. E così cercavo di richiamarli in briglia col fargli gli occhioni e col tossire e col battere per terra la sciabola. Ma fu lo stesso che dir al muro. Per buona sorte il generale era, in quel giorno, di buonissima luna. E non solo non uscì dai gangheri e non mandò in quel paese l'enfatico parlatore, ma anzi se ne piacque e lasciò campo libero alla sua lingua. Come quegli che col suo meraviglioso intuito aveva capito per aria quanta dose di bontà e di risolutezza si nascondesse sotto le apparenze bizzarre e la strana corteccia del lettore di filosofia dei minori osservanti di Salemi. E per vero, il buon Pantaleo giovò mirabilmente alle cose nostre, massime nel primo periodo di quella guerra, e non ebbe l'eguale nel sollevare i popoli e nello innamorarli della crociata contro la tirannia. Lodevolissimo poi deve dirsi, perché di quel bene che seppe fare in pro della buona causa, non ebbe né chiese in seguito alcun premio, e morì in tanto povero stato che nei supremi momenti la moglie e la sorella non ebbero di che comprare un arancio per inumidir le labbra al morente, e furono debitrici della pietà dei vecchi compagni d'arme, se la spoglia del caro morto fu chiusa in una bara e i suoi figlioli ebbero un po' di pane. Tutto quel primo giorno di fermata in Salemi fu speso nel fare apparecchi. Si tolsero due cannoni dai vecchi ed inutili affusti per farne loro dei nuovi, ai quali si adattarono ruote da carrozza, si diè mano a fabbricar delle lance, si dequisirono cavalli e si aprirono gli arruolamenti per i villani che in buon numero erano accorsi in città. Questi s'affollavano intorno a noi e guardavano con occhi di meraviglia le nostre armi, e specialmente le rivoltelle, delle quali volevano esaminare i congegni, parendo loro stupendissima cosa che una sola canna potesse esplodere 6 colpi senza esser ricaricata, e vaticinando che con quei portentosi argomenti avremmo facilmente vinto alla prima battuta e mandato a rotoli il Barbone coi suoi napoletani e coi suoi svizzeri. Nel vedere quella gran curiosità dei villani, io rammentavi i racconti di quei viaggiatori che ci dipinse di selvaggi, stupiti e trasecolati, dinanzi a coltelli, ai fucili, ai gingilli di vetro, che loro si mostravano per allettarli e ne facevano gran festa. A una cert'ora, essendo capitato nella maggior piazza della città, vidi uno stemma borbonico sulla porta d'una casa e chiesi alla gente affollata: «O siciliani, che si tarda a buttar giù quella vergognosa insegna?» La folla mi ascoltò in silenzio. Nessuno voleva essere il primo a fare atto di ribellione o a dire «bravo» a chi lo proponeva. In quel mentre mi si fece dinanzi un uomo di belle forme e dall'aria risolutissima, che seppi essere un altro dei fratelli Sant'Anna. Costui gridò: «Sì, sì, abbasso quell'arme!» e avventò contro l'arme una grossa mazza che aveva in mano. Allora io dissi: «Datemi una scala!» La scala venne e fu appoggiata al muro, e io staccai l'arme e la precipitai giù sul lastrico, esclamando: «Così cada per sempre la mala signoria!» La gente rispose con un coro di imprecazioni e cominciava a calpestare rabbiosamente l'arme, quando il vecchio Gusmaroli, fattosi largo, mi gridò: «Briusel, Briusel, brucialo, brucialo!» In un baleno comparve della stipa e fu accesa, e l'arma fatta in pezzi si bruciò, e quello fu il decreto di decadenza dell'esosa dinastia borbonica, decreto che fu benedetto da Dio per quanto l'acqua che cominciò a venir giù dal cielo minacciasse spegnere le nostre fiamme e mettere in contestazione il decreto. In quella sera il generale si coricò, secondo il solito, all'ora dei polli, dopo aver dato un'occhiata agli avamposti ed aver preso lingua dagli scorridori che avevano esplorato il terreno parecchie miglia all'intorno. L'ordine che lasciò a noi prima di spegnere il lume recava che ci trovassimo in piedi innanzi l'alba e fossimo pronti a partire da Salemi quando a lui paresse buono. Scesi dunque a governare il mio cavallo, giacché aveva avuto la sorte di provvedermene uno gratis, si intende, ed amore dei. E mentre accarezzavo la povera bestia e le facevo assaggiare forse per la prima volta in sua vita un poco di zucchero, mi capitò dinanzi il Lamasa. «Che buon vento ti porta qui?» gli chiesi, ed egli a me. «Veniva appunto a cercarti e t'ho trovato senza salir le scale. Vuoi tu venir con me?» «Venire con te? E dove?» Parto adesso per Santa Ninfa, farò un breve giro, e fra 3 giorni o 4 raggiungerò Garibaldi con un esercito. Tu non sai ancora di che cosa siano capaci i siciliani, ma li vedrai alla prova. Tu li avessi veduti come io li vidi nel 48. Lo so, purtroppo là sul continente siete avvezzi a metter tutti in un mazzo, siciliani e napoletani, ma tra questi e quelli ci corre tanto quanto da un lombardo a un esquimese. «Sarà benissimo, ma perché mai vorresti che venissi teco? Ti vorrei, per avere meco, qualcuno a modo mio, qualcuno che m'aiutasse». Capii subito che aveva messo gli occhi addosso a me sottoscritto per avere un reggicoda, e m'affrettai a dirgli: «Senti, Lamasa, non lascerei il nostro vecchio nemmeno per diventare vicario generale del Papa. Va pure per le tue terre e sveglia e conduci teco i dormienti a migliaia, ma lasci in pace me che ho trovato la mia nicchia». Lamasa non volle cedere così a buon prezzo e cominciò a far passare dinanzi ai miei occhi le guerriglias, le legioni, i battaglioni dei picciotti e a promettermi che sarei diventato Rinaldo o Brandimarte e, in compagnia sua, avrei imparato a mangiare il ferro. Dio mi volle bene anche in quel punto e non permise che io cedessi alle tentazioni. Lamasa, vedutomi duro come un masso, mi strinse la mano e se ne andò in pace, rammaricando che io respingesse a calci la buona fortuna che m'era venuta incontro a braccia aperte. Qualche mese più tardi, leggendo un vecchio numero del Daily News, trovai una lettera dalla Sicilia e precisamente da Marsala, nella quale si diceva, tra le altre cose, «Oggi, 13, è partito per l'interno dell'isola il colonnello Lamasa, accompagnato dal luogotenente Bandi, suo aiutante di campo. Si vede proprio che il povero Lamasa mi voleva bene, e gli son grato tuttavia della buona intenzione che ebbe. Ei fu uomo pieno di cuore, ed anche bravo e migliore di molti altri, se vuolsi, ma bravissimo sarebbe parso senza quel gran peccataccio della vanità che gli procacciò tanta invidia e tanta dose d'antipatia e lo mise in fregola di comandare mezzo mondo e di emulare Cesare nelle gaglie. La mattina che seguì fummo tutti in arme sopra una breve spianata fuori della porta che da Salemi conduce a Trapani e a Calatafimi. Garibaldi comparve in mezzo a noi a cavallo e si trattenne lungamente finché certi esploratori mandati fuori di Salemi non tornarono recandogli le novelle che gli occorrevano. Avuto queste novelle, volle vedere ad una le compagnie, disse qualche parola per confortarci e sperar bene e per raccomandare la disciplina e quindi rimandò tutti agli alloggiamenti. Nel tornarcene in città venne incontro a Garibaldi un bel signore che cavalcava un morello assai brioso. Dietro a quel signore, che si chiamò il cavalier Coppola, uomo animosissimo e assai stimato in Sicilia, venivano a due 300 villani armati in parte delle loro scoppette ed in parte inermi o muniti di grossi bastoni. Erano i primi insorti che si vedevano, e Dio serbava loro l'onore di dividere con noi la gloria del primo fuoco. Quella gente ci parve una manna, e le facemmo lietissima accoglienza. Non erano un esercito, ma in quel momento ogni pruno faceva siepe. E a chi si lagnò che fossero pochi, il generale rispose: «Pigliamo quel che viene, verranno in più gran numero quando avranno visto come sappiamo picchiare». Parole sante, anzi santissime. La gente, salvo poche eccezioni alla regola, non si fece viva se non quando ebbe veduto alla prova di quel che fosse capace Garibaldi, quell'uomo senza boria né ciondoli né spennacchi che andava in camicia e si copriva il capo con un cappello di feltro nero poco dissimile da quello dei contadini e dei guardiani delle capre. Tosto fu provveduto ad armare quei nuovi fratelli e a metterli insieme con un po' di garbo e a far conoscere loro le prime, più indispensabili norme del mestiere, inteso come l'intendeva Garibaldi, al quale più volte sentii dire: «Insegnate al soldato a caricare e scaricare lo schioppo, insegnategli a volgere a destra e a sinistra e ad andare avanti, ma non gli insegnate mai, nemmeno per esercizio, ad andare indietro». Distribuiti dunque i fucili alle nuove reclute, si cominciò ad ammaestrarle nei primi elementi della bell'arte d'ammazzare l'amato prossimo. Trovandomi in mezzo a quei beduini, m'accorsi che guardavano con vogliosissimi occhi il revolver che luccicava al mio fianco libero dalla fodera, che, essendosi struscita, l'avevo data a un ciabattino perché me l'accomodasse. Venuto che fu il momento del riposo, quei villici curiosi mi si affollarono intorno. E alle guardate che davano, m'accorsi che morivano dalla voglia di veder da vicino il revolver e di sapere come lavorasse quel miracoloso ordigno. Bramoso di godermi la loro meraviglia, come Leonardo da Vinci, scusate il paragone, si smammolava contemplando le bocche aperte e gli spalancati occhioni dei contadini attoniti nel veder volare gli uccelli di legno e i dragoni di fil di ferro, impugnai il revolver e mi posi a descriverlo col tono che usano i cerretani quando spiegano il mondo nuovo. I miei uditori erano tutti in visibilio, ed uno tra loro, un bel ragazzone bianco e rosso, con due occhi sgranati e con certi denti che parean fagioli, batteva le mani, esclamando in sua africanissima lingua: «Bella cosa, bella cosa!». Mi piacque quel ragazzone e pensai: «Questo bel figliolo vo' tirarlo su a briciole di pane e me ne farò uno scudiere coi fiocchi». E gli chiesi: «Come ti chiami?». «Nino Marchese». «Di dove sei?». «Di Castelvetrano». «Quanti anni hai?». 17. «Eccellenza». «Non mi dir mai eccellenza, perché da noi eccellenze sono gli asini. Dimmi piuttosto se vuoi star con me, e io ti vorrò bene, e se sarai fidato e coraggioso, ti regalerò un revolver come questo e più bello ancora». Nino Marchese fece dalla grande allegrezza due o tre salti. Io lo condussi meco in casa Torre Alta. Mutai il suo berretto a borsa di cotone nero in un berretto rosso alla turca, gli posi addosso una camicia rossa e gli infilzai alla cintola il mio pugnale e gli dissi: «Qui mangerai e berrai. Abbi occhio al mio cavallo e non allontanarti, perché da un momento all'altro potrai aver bisogno di te». Nino voleva baciarmi la mano, ma io gli misurai un gran ceffone e gli feci intendere che da allora in poi doveva aver quello strano modo di salutare i superiori in conto d'una laidissima civiltà. E così, acconciato che l'ebbi al mio servizio, me n'andai altrove, lieto e contento d'avermi accaparrato un'anima fedele e riconoscente, la quale mi avrebbe seguito a chiusi occhi fin dentro la bocca dell'inferno. Fra poche pagine vedranno i lettori come io mi ingannassi ed avessi ragione d'esclamare con quel dottorone santo: «Male abbia l'uomo che si fida nell'uomo». Solingo, errante misero, sin da primanni miei, da fanni amaro un calice, tutto in egoiare goi. Ora che alla fine a ridere mi vedo, giorno, non essendosi a tavola il padre Pantaleo, non si ragionò di teologia, né di frati, né di preti, ma si parlò allegramente del più e del meno, come se il nemico fosse da noi lontano mille miglia e noi fossimo tranquillamente e sicuramente domiciliati nella buona ed eccelsa città di Salemi. Avrei pagato volentieri le 9 o 10 lire che avevo in tasca per sapere quali propositi mulinava il generale per il dì seguente, ma non c'era caso di trapelar nulla, perché Frusciante stesso, Gusmaroli e Montanari ne sapevano quanto ne sapevo io e neanche un'acca di più. Però, quando fu l'ora d'andare a letto, cioè dopo la campana del De Profundis che annunziava la prima ora di notte, il generale mi chiese dove avessi dormito la notte scorsa. «Nel convento dei Gesuiti», rispose, «non ho chiuso un occhio perché tra arabi e lombardi han fatto un vero diavoletto. Ebbene, stanotte dormirete qui, da me, perché c'è il caso che da un momento all'altro vi debba chiamare». Auguratagli la buonanotte, collocai in una stanzetta vicina il mio nino marchese e, divisi coi soliti compagni materassi, mi distesi sul pavimento dell'anticamera del generale e tutti ci addormentammo con un pensiero in testa e con una domanda sulle labbra. Dove andremo domani?